La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, questo venerdì 5 di dicembre. E questa puntata è un po' particolare perché ogni anno, chi è così fedele ascoltatore può essere che se lo ricordi, ma comunque sia, ogni anno, da qualche anno a questa parte, in occasione del fatto che a Milano la ricorrenza di Sant'Ambrogio vede l'arcivescovo di Milano rivolgere un discorso all'intera città, a tutti i milanesi, naturalmente in cui non si parla solo di Milano, si parlano dei problemi del nostro tempo. Io ho come buona abitudine da qualche anno quello di capire, grazie alla disponibilità dell'arcivescovo di Milano, insieme a lui, i temi che tocca guardando in profondo quello che non funziona nella grande città che è sì, certamente per tradizione il cuore economico del paese, ma cercando di guardare anche in profondità quello che succede nelle grandi città italiane del nostro paese. E quindi, siccome quest'anno in realtà, visto che Sant'Ambrogio viene di domenica, proprio tra poco, alle 6 l'arcivescovo pronuncia il suo discorso in cattedrale, oggi anticipiamo il suo discorso. Noi lo abbiamo con noi e io molto lo ringrazio, perché con noi l'arcivescovo, Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Scola. Buon pomeriggio, Cardinale. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei in questo messaggio si rivolge a Milano. Lo sfondo, l'inizio e la fine del suo messaggio è l'Expo e la trasformazione di Milano insieme ad altre grandi, 10 grandi città in città metropolitane, però indica un problema che a me sta molto a cuore, ma credo anche a molti italiani, perché suscita grandi scontri, grandi malesseri, perché lei parla dei deboli, dei poveri nelle periferie, ma non solo nelle periferie delle città, che però concentrano due grandi problemi. Il problema, sì, degli immigrati, cioè di coloro che vengono, stanno in Italia e sono a bassissimo reddito e creano problemi di integrazione, ma creano problemi di integrazione perché? Perché spesso noi li concentriamo esattamente in parte delle nostre città, anche a Milano è così, si vede col problema delle case popolari, in cui anche lì sono concentrati italiani che hanno un reddito medio e mediano molto più basso, certo, di quello che capita per gli altri. E quindi la somma di questi due problemi diventa poi un problema che suscita polemiche politiche, spesso strumentalizzazioni, diffuse opinioni anche sbagliate, ma comunque diffuse tra la gente, per cui sono i più deboli che ci fanno stare peggio, perché ci levano sia quel po' di aiuti sociali che restano, che il lavoro, eccetera, eccetera. E indica per questo problema una strada. Ecco, io vorrei che ci spiegasse come su la proposta di fondo che fa, quella di un nuovo umanesimo, però concretamente si arrivi a indicare una strada per questi problemi delle periferie, di chi sta peggio, sia italiano che immigrato. Dunque, il dato singolare di Milano, che mi è stato segnalato dalle donne e dagli uomini della Caritas, che sono da anni molto impegnati verso tutte le forme di emarginazione, è che questa realtà, diciamo, di povertà con tutte le conseguenze del caso, a Milano è a macchia di leopardo. Non, paradossalmente non è concentrata come in altre zone del mondo, nei grandi slums o cose di questo genere. E le zone all'interno dei grandi quartieri periferici che vedono questo tipo di grave sofferenza, che io ho potuto anche toccare con mano, sono ormai, come lei diceva, abitate solo al 25% circa da persone che hanno un lavoro, una pensione sicura, una casa sicura. E quindi non si riesce più, così mi dicono i miei sacerdoti, non si riesce più a creare un soggetto facilitatore di amicizia civica e quindi di nuova civiltà, mentre il problema deve andare per forza di cose in questa direzione, cioè bisogna quindi che la città metropolitana, che si presenta come molto frammentata a partire dalla storia anche degli ultimi 60 anni, ritrovi un'anima unitaria, che sia radice, come ci dice il Santo Padre, di un popolo nuovo capace di farsi carico e di condividere i problemi di tutti, affrontandoli però nello specifico. Non mancano analisi molto articolate, molto dettagliate della situazione, ma è come se non avessimo più una energia unificante e il gusto e la passione di amare la nostra Milano e di darle quindi, pur nella pluriformità, un'anima che la rilanci verso il futuro. Allora, siccome il discorso che lei tiene è in occasione, insomma, di Sant'Ambrogio, a me Sant'Ambrogio, devo dire la verità, mi ha sempre colpito, perché mi ha colpito sempre anche l'aspetto pratico di quello che dicevo. Certo. È un ex funzionario imperiale, devo dire, quando per esempio il pagano Simmaco chiede che venga riportata in curia la statua della Vittoria e l'area della Vittoria, perché dice il pagano, qui quest'anno c'è carestia perché gli dèi sono arrabbiati perché voi coltivate il culto di un solo Dio, Ambrogio gli risponde non immediatamente con l'argomento che uno si aspetterebbe, dicendo no, guarda, per i cristiani c'è un Dio e quindi l'ara della vittoria non arriva. Gli risponde prima dicendo no, guarda, innanzitutto la carestia c'è in questa parte, in questa provincia, e non nelle altre, quindi il tuo argomento è infondato. Poi, seconda cosa, l'anno scorso non c'era la statua che vuoi riportare, eppure il raccolto è stato abbondante. Cioè, una persona anche molto pratica, capace di amministrare, come devo dire, no? Allora, a Milano, per esempio, ma non è solo a Milano, è la stessa cosa che è avvenuto a Roma. Noi abbiamo migliaia di alloggi delle case popolari sfitte e dall'altra parte migliaia di alloggi delle case popolari occupate senza averne il titolo, da italiani e da immigrati. E al contempo tagliamo i fondi, ce ne siamo occupati con il cappellano del Beccaria due giorni fa, a il privato sociale che dovrebbe finanziare queste cose. Come stanno insieme questi diversi pezzi, secondo me? I miei sacerdoti hanno coniato una formula molto efficace a proposito della questione delle case. A Milano ci sono abitanti senza casa e case senza abitanti, che è così, ma a centinaia, a migliaia. Quindi il problema è proprio quello di ricucire dentro la grande metropoli rapporti sostanziali tra tutti i soggetti che animano la società civile e i soggetti istituzionali, in modo da affrontare le situazioni di emarginazione in tutte le loro differenze in termini singolari e specifici. Non si può trattare allo stesso modo una famiglia che ha occupato 20 anni fa e una che è entrata due giorni fa mentre l'abitante della casa era all'ospedale. Mi spiego. Quindi c'è tutto un lavoro che mi sembra però che, per esempio, il tavolo della prefettura ha promosso. Bisogna anche incentivare l'iniziativa dal basso. Noi come Chiesa abbiamo chiesto al Comune di consentirci di ristrutturare un certo numero di appartamenti che ora sono gestiti dalla MM, che vorremmo poi dare ad affitti molto bassi, dai 200 euro ai 350, 400, secondo una gerarchia appropriata. Insomma, io credo che le energie e le forze per affrontare il problema ci sia, ma ci vuole prima di tutto un coordinamento tra i soggetti istituzionali da cui il governo non deve chiamarsi fuori. Bisogna individuare il soggetto unitario che affronta praticamente le questioni. Per esempio, prima succedeva che una commissione comunale decideva a chi assegnare l'alloggio, poi passava tutto all'ALER che doveva cominciare tutta la pratica, e questo produceva lungaggini e altre cose. Poi il dato molto importante è l'azione dal basso. Io qui non posso non fare riferimento alla capacità di mobilitazione del nostro popolo, che ho visto in via Salomone, che ho visto a Baggio, e quanta gente, soprattutto pensionati, costruiscono luoghi di ascolto, punti di solidarietà, condivisione attenta nelle diverse case in cui c'è effettivamente bisogno. Insomma, io penso che le risorse esistano e un'energia di bene sia realmente presente nella nostra grande metropoli milanese, che non è più solo il Comune di Milano. Il punto è quello di offrire alla persona la spinta e la motivazione ideale per potersi giocare con questi problemi. Per questo è molto importante che la questione fondamentale della vita, cioè la questione del senso, vale a dire del significato del vivere e della direzione di un cammino, sia posta a livello personale e a livello sociale. Per questo io parlo di amicizia civica, e cioè noi siamo chiamati a stare insieme, non possiamo non vivere insieme, e quindi la pluriformità che si è generata in tutto l'Occidente deve assolutamente essere investita da un desiderio di collaborazione, di cooperazione, ed è questo che io chiamo il nuovo umanesimo, che non è l'invenzione a tavolino di chissà quali sì, cose, certo. No, è semplicemente il riprendere la nostra grande tradizione e la storia degli nostri ultimi 60 anni e mettere al centro l'uomo, rimetterlo al centro nei suoi rapporti costitutivi. Aspetti, la interrompo perché torniamo su questo, perché abbiamo i 60 secondi di informazione stradale. Torniamo tra un minuto con il cardinale arcivescovo di Milano Angelo Scola. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori, con questa anteprima, perché proprio tra poco alle 18 in cattedrale a Milano l'arcivescovo di Milano, Sua Eminenza Angelo Scola, si rivolgerà alla città, ma anche a tutti gli italiani, con un messaggio che quest'anno è incentrato su questa proposta di nuovo umanesimo, ma come strumento per dare risposte concrete poi a ciò che nelle nostre città, non solo nella grande Milano, resta irrisolto, in particolare guardando ai deboli, a chi ha meno reddito, a chi non ha un lavoro stabile, agli anziani che non tirano avanti perché non hanno magari neanche la minima a 500 euro. E abbiamo parlato in particolare di quello che si può fare per tentare di riprendere in mano la questione di un equilibrio urbano e dell'identificazione di strumenti abitativi per le fasce a basso reddito. Eminenza, le faccio una domanda, perché naturalmente lei sa che nei confronti della Chiesa da qualche anno ci sono polemiche ricorrenti, dicendo: ah, ma come, la Chiesa è la prima che poi sulla tassazione degli immobili suoi, di cose miste, commerciali, insomma, la gente è convinta che voi dobbiate pagare più tasse. Allora, siccome una delle cose di fondo del suo messaggio è proprio sulla gratuità del dare, quindi sì, l'abbiamo detto, sì, allora le faccio una domanda concreta. Lei è convinto che la Chiesa, col suo patrimonio immobiliare attuale, possa a propria volta fare anche di più? Lei già ci ha fatto un accenno prima, sì, ma possa fare di più? Si deve mettere mano anche a quel patrimonio per risolvere il problema? Ma certamente noi dobbiamo dare tutto il contributo possibile nel rispetto dell'equilibrio del nostro compito, che pure evidentemente, come ogni compito che ha una rilevanza sociale, ha bisogno anche di mezzi per potersi porre. Però l'azione che le nostre parrocchie capillarmente e a livello centrale la Caritas compie dal punto di vista della dimensione della condivisione del gratuito è già enorme. Sia a Venezia il sindaco Cacciari che qui a Milano Pisapia mi hanno detto che senza l'azione capillare dei cristiani e della Chiesa il problema del welfare sarebbe molto molto più grave. E per esempio lo sforzo che abbiamo fatto con la messa a disposizione di tante nostre case, di tante nostre strutture, questo nuovo sforzo che la nostra Fondazione San Carlo vuol fare mettendo in affitto molto calmierato questi appartamenti da noi strutturati, uno sforzo per cui ci siamo impegnati di già per 2 milioni, sono segni espressivi di questo dato. Vede, esiste un problema, è talora molto difficile rendersi effettivamente conto anche degli elementi di spesa che la Chiesa ha per la sua vita ordinaria, che però non ha solo una funzione legata al culto o all'attività dei cristiani, ma ha sempre anche una grande funzione di rilevanza sociale: tenere aperte le chiese, renderle visitabili, creare centri di ascolto, luoghi di accoglienza. Pensa ai nostri oratori, soltanto quest'estate più di 400.000 ragazzi hanno passato più di un mese nei nostri oratori, e tutto questo implica per forza di cose, certo, anche spese. Poi risorse, è chiaro. Certo. Io ricordo poi a chi è in ascolto che noi dovremmo essere più confidenti in noi stessi, nel senso che, lo dico sempre, anche se lo Stato adesso alza le tasse, ma la capacità di centinaia di migliaia, anzi di alcuni milioni di italiani, di darsi da fare nel volontariato sociale è straordinario. Pensate che solo a Milano, nel suo discorso che tiene tra poco l'arcivescovo, ricorda che solo a Milano abbiamo 7.820 organizzazioni, certo, di cui 1.656 specificamente dedicate ad attività di assistenza, sviluppo, filantropia, cooperazione e solidarietà, con circa 20.000 volontari. Cioè, capite che questo è un patrimonio che è l'evoluzione storica del modello ambrosiano, ma in tutta Italia, poi laddove più, laddove meno, è vero. Così, e questa è secondo me la straordinaria forza del nostro paese, che tendiamo un po' dimenticare. La politica secondo me sottovaluta molto, però al centro naturalmente del suo messaggio di oggi c'è ovviamente un fondamento che è antropologico e profondamente cristiano, non potrebbe che essere così. Questo nuovo umanesimo, in particolare le chiedo, intorno alla famiglia, la possibilità, noi viviamo ogni giorno vicende terrificanti di vittime, di bambini, che fanno emergere tutto quello che non funziona in moltissime famiglie italiane, la mancanza oramai, per chi creda o chi non creda, ma io ne faccio un discorso a chi è in ascolto anche se non crede, di condivisione di valori essenziali, di che cosa vuol dire stare insieme. Allora, su questo, che è un po' il punto su cui lei batte sempre, secondo lei ci sono dei segnali positivi o stiamo di volta in volta sempre andando indietro? Dunque, evidentemente c'è stata una fortissima evoluzione, è inutile analizzarla, del modo di concepire gli affetti e soprattutto del modo di tenerli in equilibrio con le altre dimensioni costitutive della vita, soprattutto il lavoro e il riposo. Però la famiglia resta una grande risorsa, io lo vedo visitando regolarmente le parrocchie, le aggregazioni, una risorsa privilegiata che ha bisogno di essere aiutata e sostenuta nell'aprire quelle prospettive di senso, è qui che la parola nuovo umanesimo diventa significativa, che le consentano di vivere il quotidiano, perché il cristianesimo è legato al quotidiano. Gesù è venuto per indicarci la vita eterna, ma per aiutarci alla prospettiva del paradiso ci vuole accompagnare in ciò che tutti i giorni facciamo, nei rapporti costitutivi. Io credo che la famiglia, da questo punto di vista, intesa come un rapporto stabile, aperto alla vita tra l'uomo e la donna, capace di procreare, sia il luogo in cui ognuno di noi, fin dalla prima infanzia, lentamente risponde alla grande domanda chi sono io, e all'altra che consegue chi mi assicura, cioè mi consente quella consistenza che mi permette di affrontare tutta l'esistenza che ho davanti e di abbracciare tutto il reale. Da questo punto di vista è molto grave che siano mancate, come invece non sono mancate in Francia e in altri paesi europei, politiche familiari veramente solide, tese a superare il gelo demografico in cui l'Italia è, tese a dare sostegno e conforto alla famiglia nel suo duplice compito, cioè di far vivere in verità la differenza tra i sessi e la differenza tra le generazioni. Sono due elementi costitutivi di questo umanesimo nuovo. Io sono molto d'accordo con questo appello del cardinale. Io credo che quando rimetteremo, anche proprio dal punto di vista fiscale del welfare, la famiglia al centro di una possibilità, con le detrazioni, col quoziente familiare e così via, se noi più non lo faremo, più la disgregazione sociale aumenta. Poi, crediate o non crediate, ma insomma la famiglia è il luogo nel quale gratuitamente si riceve, gratuitamente si impara a dare quando si è più vecchi a chi viene dopo, e questo è il fondamento di una comunità, e ce lo siamo un po' dimenticati tutti. Grazie davvero al cardinale di Milano. Per chi vuole va ad ascoltarlo tra poco, e appuntamento all'anno prossimo, ma intanto continuate voi ascoltatori che Radio 24. La versione di Oscar.